e ricordavo ad ascoltatrici ed ascoltatori quello che appunto ci siamo detti qualche settimana fa, quindi insomma di un posto di blocco sul ballatoio della vostra sede, che appunto è una sede accogliente di stranieri e straniere, di migranti, chi in cerca di una regolarizzazione, chi in attesa di un permesso per rifugiato, insomma di chi ha cercato di imparare questa strana lingua che parliamo, e quindi come insomma veramente da miglior dittatura è stato messo proprio lì un posto di blocco. E raccontaci, da questo era un po' dove eravamo arrivati, voi poi avete reagito a questa forma di repressiva diciamo con un comunicato, raccontaci un po' allora come si è evoluta la cosa e quello che è successo oggi. Sì, noi in occasione di quello che è avvenuto il 23 di novembre abbiamo sia mandato in giro delle comunicazioni a tutte le persone che noi conoscevamo, sì, abbiamo scritto al questore di Roma, perché queste sono delle operazioni di polizia che partono direttamente dalla questura di Roma, e pare che noi non abbiamo avuto cenni di risposta, di riscontro a questa nostra lettera, però l'ultima volta, che era un paio di venerdì fa se non mi sbaglio, c'è stato di nuovo un altro intervento delle forze dell'ordine, minore perché non ce n'erano 15 di volanti ma forse 8-9, al ballatoio accanto al nostro. È come se non avessero oltrepassato la linea di confine che divide il ballatoio nostro col ballatoio degli altri, perché quello è un ballatoio Conda Rossa, abbastanza frequentato da stranieri, ci sono negozi, c'è tanta gente che gira e che va. Oggi ce n'è stato un altro di intervento, e sempre con il grande pullman che poi viene riempito e portano tutti al fotosegnalamento, e hanno preso una persona che da noi seguita, un nostro cliente, che è un ragazzo eritreo riconosciuto rifugiato già da 4 anni ed è in rinnovo del suo permesso di soggiorno, ed è una persona che purtroppo ha dei problemi mentali ed è, diciamo, viene destabilizzato spesso anche per non avere questo documento in mano che lo fa stare tranquillo. Noi, il nostro operatore è intervenuto per spiegare alla polizia che lui era da noi seguito, che aveva tutte le ricevute del, insomma, tutte le cose che noi stiamo facendo per lui, scritto appuntamenti con la questura eccetera eccetera, ma hanno detto che l'avrebbero comunque portato al fotosegnalamento. Poi il giovedì pomeriggio interviene sempre un nostro avvocato del lavoro, per cui siamo andati di nuovo con gli operatori, l'operatrice, l'avvocato del lavoro a rispiegare di nuovo tutte queste cose, e per fortuna con il tesserino dell'avvocato l'hanno fatto scendere dal pullman, e questo è quello che è successo. Quello diciamo che noi, ecco, ha avuto anche un'enorme fortuna a trovare lì il suo avvocato in quel momento, perché sì, se no, non era assolutamente... il suo avvocato, non ma è comunque il vostro, esatto, comunque. Basta che c'è il tesserino, insomma. Sì, no, lui è stato fortunato che noi ce ne siamo accorti, è stato fortunato che noi eravamo lì, è stato fortunato per tutta una serie di circostanze, però se uno lo conoscesse, la persona in questione, proprio tutto gli verrebbe in mente, tranne che di pensare che è un pericoloso delinquente, ecco. Sì, ecco, insomma, lasciando stare che poi appunto una persona in quelle condizioni, forse sì, le manette, no, ma il pullman, il rimpatrio, non sono proprio il certificato medico dello psichiatra, del SAMIF, insomma, non è che siamo andati lì parlando e basta, insomma, abbiamo portato documentazione. Io non so quali siano i reali ordini che loro hanno, però fatto sta che se sei straniero questo... ti acchiappano. Voi come, diciamo, come appunto associazione che appunto appoggia, che fa questo tipo di servizio, cos'è che, insomma, il vostro pensiero, a parte la palese manovra, insomma, che mi sembra che appunto tra voi, i luoghi dove l'altro giorno sono uscita la metropolitana, sembra stesse per esplodere l'11 settembre di nuovo, insomma, era pieno di cani, di poliziotti, una cosa allucinante, per fermare dei poveracci e vedere se avevano noi documenti, con persone che veramente andavano nel panico, perché poi appunto forse chi ci lavora quotidianamente si rende conto anche di come cambia la vita anche stando in regola, ma di come uno si senta poi limitato della propria libertà, cioè, no, no, ma comunque tu sai che se qualcuno ti ruba scacco. Il portafoglio e ti fa quel pezzo di carta, tu hai chiuso, sì, probabilmente certo. Ti farai 6 mesi della peggior galera, perché manco galera è, un CIE forse è qualcosa di peggio. Sì, insomma, sono delle intimidazioni, perché prendere una persona che è comunque regolare, tenerla dentro al pullman, farla aspettare delle ore, portarla al fotosegnalamento, aspetti delle ore, stai con di tutti e di più, non è piacevole, insomma, diciamo che sono intimidazioni continue, e allora diciamo che qui si sta male, certe persone qui stanno male. Sì, e soprattutto anche sono se poco gradite. E lavoratori e per bene, insomma, o non metti il naso fuori di casa e fai il famoso casa chiesa lavoro. Sì, senza ecco. Fare dei grandi percorsi, poi non devi passare per Termini, non devi prendere il trenino alle Laziali. No, infatti, va bene.